Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizio. Ogni giorno a quest'ora torniamo nei luoghi della grande cronaca, cerchiamo storie e personaggi, insomma vi raccontiamo la nostra Italia in controluce. Oggi siamo in Sicilia. L'abbiamo chiamata l'Italia che perde i pezzi, pezzi di industria ma anche servizi, call center, ricerca. Lo stabilimento Fiat di Termini Imerese è uno di questi pezzi. L'azienda ha da molto tempo già deciso, non è conveniente produrre automobili in Sicilia. Il governo, ma anche la Fiat stessa, sono pronti a tenere un tavolo aperto con le autorità locali e i sindacati per trovare soluzioni alternative all'insediamento dell'auto. Il futuro di Termini Imerese dunque è già adesso. I primi frammenti del mosaico ce li racconta Nino Amadore. Visto dalla collina su cui sorge il piccolo centro di Sciara, lo stabilimento Fiat di Termini Imerese è un luogo di speranza. A Sciara oggi sono in 60 a lavorare per la Fiat o le imprese direttamente collegate, ma molti di più mangiano, come si dice da queste parti, grazie ai soldi che arrivano da lì. Il simbolo di questa economia che dipende dall'azienda del lingotto è proprio il sindaco di Sciara, Salvatore Rini, dipendente della Lear, una delle maggiori aziende dell'indotto. È lui che spiega. Che riconvertire gli impianti oppure riconvertire proprio il modo di lavorare, fra virgolette, nel territorio diventa molto molto difficile. Quindi c'è un senso quasi di rassegnazione a questa chiusura Fiat, una mancanza di capacità di reazione proprio a livello imprenditoriale. Non so le alternative proposte se possono, diciamo, sfociare in un'occupazione sufficiente che possa garantire occupazione per tutti i lavoratori Fiat. Penso di no, perché il settore automobilistico poteva garantire sia lavoratori attualmente in forza che proporre nuove prospettive per i giovani del territorio che sono assetati lavoro e affamati di lavoro. Quindi il fatto che Fiat vada via è una grossa perdita. Ma l'abbandono della grande fabbrica mette in crisi un sistema consolidato con conseguenze almeno su 10.000 persone. Ci sono le aziende medie, certo, ma anche gli artigiani come Michele Barbagallo, fornitore della Fiat per oltre 30 anni con la sua piccola impresa. Però allora ci ritroviamo con 4 dipendenti che adesso non posso più neanche tenere, non c'è futuro per i miei figli, perché mio figlio non c'è, io devo adesso licenziare perché non c'è più niente. Io devo chiudere. Per gli operai l'unica certezza oggi resta la fine di un'epoca. Ogni giorno che passa nell'area industriale si spegne una luce. Una situazione che spinge le famiglie e gli operai stessi a interrogarsi su una prospettiva diversa. Sentite il racconto di Vincenzo Tascone, dipendente della Tecniom, altra azienda metalmeccanica dell'indotto. Praticamente che succede ora? Ogni volta che scade il contratto, Fiat non rinnova più il contratto. Questo è proprio l'inizio di buttare fuori le persone. Fra 2 mesi scade pure un altro contratto del servizio mensa, che è pure una ditta esterna. Nel 2011 scade quello nostro, praticamente quella della Tecnomia. Se arriva un'altra impresa, gli operai, è proprio così, Fiat obbliga di prendere, di assumere di nuovo le persone che sono uscite. Ma l'abbandono della Fiat rischia di diventare il simbolo del declino industriale della Sicilia e di Palermo in particolare, spiega il segretario regionale della CNA Mario Filippello, che è stato anche sindaco di Sciara. Perché la provincia di Palermo per anni ha costituito una realtà che ha rappresentato un vero e proprio distretto nel settore della metalmeccanica legata al trasporto. Poi lo stabilimento Fiat, quando arriva, ha dato l'illusione che poteva ampliarsi questo settore metalmeccanico e anzi puntare ad andare avanti e modernizzandosi. Quello che i governi, le classi dirigenti regionali e soprattutto di questo territorio non hanno capito che quell'occasione andava sfruttata e occorreva chiedere con forza di partire dallo stabilimento di assemblaggio delle macchine Fiat per puntare direttamente a una realtà metalmeccanica che potesse competere nei mercati in modo diverso. Che sia necessario andare oltre, magari accelerando sulle nuove proposte, siano 8, 10, poco importa, è quello che pensano gli imprenditori, i quali avvertono il clima pesante in un'area in cui molti chiudono i battenti.